A bordo campo di Dario Ricci. Oggi a bordo campo un ospite davvero particolare, 35 anni, milanese, la peschiamo sul divano di casa, vero Katia Figini? Benvenuta a bordo campo, finalmente il divano di casa, vero? Sì, ciao a tutti, finalmente il meritato riposo, dopo la grande marcia, diciamo, via. Eh sì, spieghiamo subito perché ti troviamo sul divano, perché Katia Figini ha in mente un'idea davvero particolare. Un quinto di questa impresa è già stato realizzato, niente po' di meno che l'attraversamento del Sahara di corsa a piedi, per un totale di quanti chilometri, Katia? 250 chilometri divisi praticamente in 5 giorni, insomma, per cui una cosa un pochino lunga, ecco, diciamo, via. Eh sì, insomma, non è cosa da tutti i giorni, ma siamo appunto a un quinto dell'impresa, no? Perché l'obiettivo qual è? Allora, l'obiettivo è attraversare 5 continenti, per cui 5 diciamo deserti entro un anno, contro la violenza sulle donne, cioè per cui una traversata simbolica in tutto il mondo, perché comunque questo è un problema che è riscontrato in vari termini comunque in tutto il mondo. E perché 5 continenti? Perché ogni continente sempre simbolicamente rappresenterà una parola che poi comporrà la parola women. Abbiamo deciso l'inglese perché comunque la lingua, insomma, si può dire generale, ecco, ormai usata a livello mondiale, per cui volevamo rendere l'impresa, diciamo, internazionale, intercontinentale. Ecco Katia, come nasce questo progetto? Allora, questo progetto è frutto di un cammino che ho fatto io personale, che poi mi ha visto in molti punti in comune con la Fondazione Fondiaria SAI, con la quale collaboro in questo progetto. Il mio progetto si chiama Run for Women e concorre a racchiudere il progetto di più esteso di Women to Be, della fondazione che si occupa di fare degli interventi in tutto il mondo a favore comunque della donna. E è nata perché durante una di queste gare, perché sono comunque gare ufficiali che io vado a fare, sono gare che durano 5, 6, 7 giorni, nel Mali, ero in Africa e mentre correvo ho incrociato molti visi di donne, molti sguardi, insomma, che mi guardavano inizialmente come un extraterrestre. Secondo me in alcuni casi neanche mi riconoscevano perché ero tutta bardata, loro ovviamente non si sono abituati a vedere una pazza che corre. Quando però vedevano che era una donna, si creava come un qualcosa, una complicità, si può dire, era un messaggio, un po' un dire siamo tanto diverse ma alla fine siamo uguali, ecco. Per cui da lì mi è venuta questa idea, proprio vedendo tra l'altro come vengono comunque trattate le donne in Africa, ma non solo in Africa, un po' in tutto il mondo, insomma. Poi sono rientrata in Italia con questa sensazione che poi dopo ho reso concreta inventandomi questa, diciamo, avventura, ecco. Bella responsabilità, no? Correre per tutti questi chilometri con la coscienza delle donne nello zaino. Il Sahara è fatto, quali sono adesso le prossime tappe? Allora, Sahara è fatto, poi vabbè, ovviamente Sahara è molto esteso, io ho fatto una piccola parte, sono passata dalla cosiddetta Valle delle Balene, che poi è circa, diciamo, a 150 chilometri a sud del Cairo. Sicuramente ci sarà la Patagonia per quanto riguarda l'America del Sud, le montagne del Colorado per l'America del Nord, l'Asia è da decidere tra l'India piuttosto che l'Oman o comunque altri stati. Adesso vedremo, poi ci sarà l'Australia vicino a Sydney nelle Blue Mountain. Goditi il meritato riposo perché di chilometri davanti ne hai ancora molti. C'è qualche intreccio, incontro che ti è vivo nel cuore? Guarda, io la cosa più forte appunto è questa che ho menzionato del Mali, ma perché era una gara che attraversava i paesi del Dogon lungo la falesia del Bandiagara. Si passava attraverso questi paesi che sembrava di essere tornati, non so, a 500, 1000 anni fa, perché sono case proprio fatte di fango, dove vive, cioè c'è una vita che noi non siamo più, cioè non siamo mai stati abituati a vedere, e la donna lì è diciamo l'unica che lavora, nel senso che a noi attraversavamo proprio in mezzo a questi paesi, tra l'altro chiedendo dei permessi speciali, perché bisogna parlare col capo tribù, bisogna portargli dei doni per poter passare, e notavo che nella vita, cioè nella vita loro, alla fine le donne sono quelle che vanno a prendere la legna, quelle che vanno ai pozzi, gli uomini erano sempre seduti e non facevano mai niente. E durante il mio passaggio, a parte questo sguardo di questa donna, mi ricordo che passando proprio loro dicevano è una madame, e allora iniziavano a esultare salutandomi in un modo molto più forte di quanto poi vedevo lo facessero con gli uomini, perché comunque anche i rapporti sono diversi, con gli uomini erano meno affabili insomma che con me, e altre donne invece più riservate, per cui più nella loro vita, prese dalle loro cose, insomma erano delle grandi sensazioni. Immagino anche che il pensiero vada alle donne più vicine, no? Quelle che subiscono poi violenza, maltrattamenti, o magari a Milano, la tua città, qui in Italia. Ecco, da questo punto di vista, qual è il messaggio che arriva da tutti questi chilometri che ti metti sotto le scarpe e nel cuore? Intanto ovviamente la violenza sulle donne ha mille sfaccettature, perché cioè la violenza non è solo appunto lo sfruttamento della donna, anche appunto come dicevi tu a Milano, in Italia ci sono altri tipi di violenze, tra l'altro è uno dei motivi di morte, forse il principale o il primo o il secondo a livello mondiale, per cui è un problema radicato che c'è e c'è in tutti gli stati, e questa mi ha stupito anche scoprire anche per esempio che in Finlandia o comunque i paesi del nord sono presenti delle violenze anche all'interno dei nuclei familiari in percentuale molto più alta rispetto a quello che è l'Italia. Io non l'avrei mai detto, per esempio. E il perché correre? Ovviamente unisco una passione che è quella di correre, ma il messaggio è quello di: se io riesco a fare 100 chilometri in un giorno, trovando il coraggio e la forza di farlo e dimostrando che una cosa che apparentemente è impossibile è possibile fare, anche tu donna che comunque subisci una serie di violenze, che hai paura a uscire da quello che è il tuo tra virgolette nido nero, perché poi alla fine se la violenza avviene all'interno di una casa si ha paura a dichiararla, anche tu ce la puoi fare, per cui poi noi abbiamo anche, soprattutto ovviamente nei paesi più strutturati come appunto l'Italia, insomma l'Occidente, abbiamo delle strutture che sono in grado di aiutare le donne, per cui un pochino il coraggio, ecco, ovviamente io non ho una pretesa di salvare il mondo, però di far vedere un altro modo di poter reagire a un qualcosa che pare impossibile, ecco. Katia, ti chiedo ancora, qual è stata finora la risposta internazionale a questa tua sfida e agli obiettivi che ti prefiggi? Immagino che ci siano tante donne che magari tramite internet, blog, email ti abbiano contattato per magari esserti vicina, no? Sì, esatto, mi hanno contattato tante persone, ovviamente tramite anche Facebook, tramite il mio sito che poi eventualmente vi do, eccetera eccetera. Daccelo allora, subito. Il mio sito è www.xcorsi.eu. Xcorsi sta come percorsi, però al posto della per c'è una X. All'interno del sito c'è anche tutta la parte relativa a Women to Be e al progetto. Molte donne mi scrivono ovviamente non tanto per chiedermi un consiglio, perché appunto io sono un po' il simbolo di questa cosa, ma non è che io risolvo il problema, però ho trovato molta solidarietà, molti apprezzamenti, è un po' come le altre donne si sono unite con solidarietà a questa mia diciamo marcia, per cui io mi piacerebbe un giorno poi creare un blog o comunque pubblicare tutta una serie di frasi, di belle frasi che mi hanno scritto le donne, e poi contattare sempre più enti, associazioni, insomma cercare di creare sempre un nucleo più compatto e strutturato per promuovere questa cosa, ecco. È quello che ti auguriamo, Katia, e intanto grazie di essere stata nostra ospite a Bordo Campo, e chiaramente poi ti verremo a inseguire telefonicamente. ovviamente nel tuo giro per il mondo, correndo. Intanto però da Radio 24 quello che possiamo fare, oltre all'in bocca al lupo, chiaramente magari io so che tu corri abitualmente con il tuo iPod. Beh, allora, quale canzone possiamo regalarti a te e alle donne che marciano con te? Mi piace molto degli America e Horse with No Name, perché mi dà una bellissima carica e perché comunque appunto parla sempre del deserto, che sono dei posti meravigliosi da vedere, assolutamente. Allora, grazie Katia Figini, buon cammino con la tua canzone preferita in compagnia di Radio 24 e con tutti i nostri ascoltatori e con tutte le donne che corrono insieme a te per uno scopo tanto importante. Buon viaggio! Grazie mille a voi, un bacio a tutte le donne del mondo. Bello, bello davvero il Sahara visto con gli occhi, la voce di Katia Figini. A bordo campo. Da Sezze Romano, in provincia di Latina, in cima al Karakorum. Beh, percorso lungo e sicuramente affascinante quello che ha compiuto e che sta compiendo l'ospite di A Bordo Campo di oggi. Benvenuto ai nostri microfoni, benvenuto a Radio 24, Daniele Nardi. Grazie. E Daniele, allora, dicevamo, nato a Sezze Romano 34 anni fa, non esattamente un posto di montagna, siamo in provincia di Latina, però grande alpinista, e ora parleremo anche delle tue conquiste più recenti. Come nasce questa passione per la montagna, che diventa poi quasi impegno professionale? Daniele, raccontaci un po'. Io vivo a Sezze, che è un paese che dà sulla pianura Pontina, quindi io vedo il mare. Una volta incontrai un grande imprenditore che mi diceva sempre che una persona deve avere sempre il mare di fronte per avere l'orizzonte e vedere dove andare, ma alle spalle deve avere una montagna. E io avevo i Monti Lepini, questa montagna di 1500 metri. Non è stato facile, ma la grande passione mi è nata così, d'improvviso, e ho provato a scalare le montagne più alte del mondo. Il tuo curriculum parla per le imprese che hai fatto, una recentissima proprio quest'estate, no? Siamo stati in Pakistan, io e Lorenzo Angelozzi, e abbiamo provato a scalare delle montagne fantastiche. Certo, non è stato facile perché sappiamo che le condizioni del Pakistan quest'anno sono state assolutamente disastrose, legate a queste inondazioni che ci sono state. Però noi siamo riusciti comunque a trovare quelle finestre di bel tempo e alla fine è arrivato un bellissimo successo, una montagna inviolata di quasi 6400 metri che noi abbiamo intitolato Peak of Freedom, per tanti motivi, ma soprattutto per dare il senso di libertà che questo popolo meriterebbe al 100%. In questo senso abbiamo fatto una bellissima scalata in stile alpino, cioè veloci e leggeri, e in 30 ore siamo riusciti a scalare la parete e a tornare giù. È stata un'avventura meravigliosa. Eh sì, dalla Peak of Freedom poi alla quella che avete ribattizzato la Telegraph Road, no? Sì. Dire Straits nelle orecchie. Noi avevamo il lettore MP3 sempre puntato. E, insomma, è stata un'avventura bella, bella in questo senso. Come gestisci questo senso di sfida con la montagna, che poi alla fine è sempre la vincitrice di questo duello, no? Sì, io non credo che si possa conquistare o vincere una montagna. Quello che si vince è la sfida con se stessi. È una sfida legata alle emozioni, alla paura che si ha di affrontare comunque l'ignoto. Io mi sento un po' un esploratore quando vado su queste montagne, anche se sono state già scalate, comunque noi esploriamo il nostro mondo attraverso i nostri passi, e quindi se ci accompagna l'attrezzatura migliore nel modo in cui noi anche la utilizziamo e come ci alleniamo a prepararci a queste scalate, è fondamentale. Io diciamo spesso dico che nel momento in cui si affronta una montagna di questo tipo c'è un momento in cui bisogna avere il coraggio veramente di strapparsi il cuore dal petto e buttarlo oltre l'ostacolo. Se poi siamo in grado di buttarlo su in vetta ad una montagna, non ci rimane altro che trovare il coraggio per andarsela a riprendere. Coraggio è anche saper dire no, rinuncio a quella vetta? nel momento in cui si valutano i pericoli, i rischi, è anche quello il coraggio. Credo che il coraggio più grande sia proprio quello di saper rinunciare quando non ci sono le condizioni per poter continuare la scalata. Il problema grosso che incontrano gli alpinisti, credo che in una situazione in cui l'ipossia, quindi la mancanza di ossigeno, comunque ti mette nelle condizioni di non poter ragionare nel migliore dei modi, proprio perché il cervello umano ha bisogno di ossigeno per funzionare, con le quad è veramente complicato, cioè lì veramente la linea di confine fra prendere la decisione giusta e non prenderla. Per cui quale coraggio maggiore se non quello di capire, riuscire a capire se è il caso di continuare oppure no? Mi dicevi poco fa che anche gioire a quota 8.000 può essere un errore che un alpinista può pagare caro, vero? Certo, io nel 2008 ho scalato due montagne di 8.000 metri nell'arco di un mese l'una dall'altra. Eravamo in vetta al Nanga Parbat di 8.125 metri e poi ci siamo spostati sul Broad Peak. Quando sono arrivato sul Broad Peak, vuoi o non vuoi, insomma, uno del centro-sud che scala 2.800 insieme sembrava incredibile, ma per prima cosa a me. Quindi quando sono arrivato in vetta mi è sembrato veramente di una gioia talmente grande e incontenibile che io ho urlato proprio di gioia. E il problema è che lì a 8.045 metri sul Broad Peak non c'è ossigeno per la seconda volta in una spedizione a distanza di un mese, quindi ho avuto quasi un mancamento e la concentrazione dell'alpinista non è solo nella salita, anzi, ma è soprattutto nella discesa. Noi rimaniamo veramente poco sulla montagna e per cui in quel momento ho dovuto ritrovare la concentrazione, rimettermi un attimo in moto per poter cominciare a scendere, perché chiaramente il nostro più grande desiderio è quello di festeggiare con i nostri cari e i nostri cari sono in Italia, bisogna tornare giù. Eh sì, la montagna ti ricorda sempre le sue leggi. Parlavi della discesa. Bene, i riflettori su di voi che conquistate queste vette si accendono quando siete lassù in cima. Poi però la sfida vera forse è proprio la discesa, no? In cui si viene a patti con i propri limiti e con la montagna e con la natura. Come prepari dal punto di vista tecnico e psicologico questo momento? Allora, certamente io volevo raccontarti un esempio. Io non ho sempre vinto sulle montagne di 8.000 metri. Ci sono state le prime due spedizioni in cui, diciamo, io ho fallito, nel senso che nel 2001 e nel 2002 non sono riuscito a raggiungere la vetta né del Gasherbrum per un motivo legato alla spedizione, né il Cioio perché ebbi un congelamento. E qua si rifà il discorso di saper scegliere. Sul Cioio pensa che ero a soli 150 metri dalla vetta, comincio a non sentire più le dita dei piedi e dovevo decidere. Ero solo a 30-35 gradi sotto zero, dovevo decidere se continuare oppure tornare indietro. Quindi lì accettare di dover scendere a soli centinaia di metri dalla vetta non è stato facile. Ecco, sicuramente queste esperienze sono state importanti per capire come preparare la discesa di una montagna, ma più che altro perché bisogna capire quanto si può spendere di energia durante la salita affinché ce ne rimanga a sufficienza per poter scendere. Io credo che da un punto di vista tecnico lo si prepara facendo degli allenamenti specifici. Io mi alleno anche facendo delle corse in discesa, facendo delle discese a volte anche particolarmente difficili e impegnative in momenti di stanchezza, in ambiente protetto come può essere l'Appennino nel caso mio specifico oppure qualche volta sulle Alpi. Però la cosa più importante è quella di abituare la testa, la nostra capacità di capire in quale situazione siamo e lo faccio spesso allenandomi nelle bufere, sempre in un ambiente in cui posso controllare in un certo senso e quindi in quelle situazioni io mi abituo a trovare la strada nei momenti di maggiore difficoltà e pian piano questo mi ha aiutato in un paio di situazioni a tornare a casa. Ecco, insomma, tanto per capire che un 8.000 non si improvvisa, Daniele, direi che ci ha ben reso l'idea. Parlavi di momenti difficili sono quelli che ancora sta attraversando il Pakistan dopo le devastanti alluvioni di quest'estate che hai vissuto in qualche modo in prima persona. Ecco, c'è un'immagine, un episodio che ti rimane particolarmente vivo nella memoria del paese, che hai colto proprio in questo momento così difficile? Ce n'è una in particolare. Noi stavamo rientrando dalla spedizione che, tra l'altro, ero quasi sul punto di annullare perché mi sembrava quasi un affronto a questo paese che mi ospitava. Io, tutto sommato, è vero che è la mia professione, ma vado a giocare in un certo senso con le montagne. E loro, insomma, invece morivano per queste grandi alluvioni. Ecco, quando poi abbiamo deciso di continuare, ma quando rientravamo, ad un certo punto una frana gigantesca scatenata dall'acqua che caricava questi pendii di terra, perché il Pakistan è molto fatto di terra, a un certo punto siamo dovuti passare sopra un villaggio. un villaggio completamente devastato da questa terra, da questo che è scesa giù, piena di acqua, dove sono morte 13 persone. Fortunatamente le altre si sono salvati, perché questa frana ha colpito solo una parte del villaggio, ma noi con la jeep siamo dovuti passare su questo villaggio. Ecco, in quel momento mi rendevo conto che passavo veramente dentro una tragedia che in quel punto purtroppo era piccola rispetto a tutto ciò che era successo nel Punjab del Pakistan, che era decisamente, decisamente superiore. Si parla di numeri incredibili. Ecco, in questo senso nasce il mio impegno per l'anno prossimo, perché io porto sempre dei progetti di solidarietà in questi luoghi, di cercare di raccogliere fondi, di trovare medicinali, cose come abbiamo sempre fatto, e di portarne ancora di più in questi luoghi, perché veramente hanno bisogno, e hanno bisogno dell'aiuto di tutti coloro che vogliono sostenerci e comunque aiutare questo popolo che ha bisogno d'aiuto. Beh, Daniele, che dire, un'iniziativa che rende ancora più onore oltre alle vette che hai conquistato. Allora, grazie a Daniele Nardi per essere stato ospite di A Bordo Campo, e allora ti aspettiamo ancora una volta ai nostri microfoni dopo la prossima conquista. Grazie a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento è per ogni domenica alle 14.30 e in replica ogni sabato mattina alle 6.30. Un saluto da Dario Ricci.